La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 119. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. L'articolo 119 è stato a sua volta modificato nel 2001 e quindi rientra nell'ampia riforma del titolo V. Anche qui abbiamo un'impostazione federalistica, perché l'articolo 119 riguarda il cosiddetto federalismo fiscale, cioè riguarda le funzioni e le competenze tributarie degli enti territoriali. Ecco allora che l'articolo 119 stabilisce che comuni, province, città metropolitane e regioni hanno autonomia finanziaria, quindi sono enti autonomi dal punto di vista dell'entrata e della spesa e ovviamente devono concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari. Il nuovo articolo 119 ha un importante riconoscimento dell'autonomia tributaria degli enti e quindi dà maggiori competenze e maggiori responsabilità anche agli enti territoriali, affinché ciascuno concorra a gestire meglio i propri bilanci e i propri servizi e poi ne riconosca la partecipazione allo Stato. Quindi abbiamo un sistema di finanza pubblica e un sistema tributario diffuso sul territorio. Ecco però che, come recita l'articolo successivo, la legge deve avere un fondo perequativo, perché ovviamente avremo una perequazione necessaria fra territori, nel senso che lo Stato, mediante legge, deve garantire il riequilibrio fra territori più ricchi e territori più poveri. Ed ecco ancora che il comma ancora successivo garantisce gli interventi speciali, perché lo Stato deve riequilibrare i territori, lo Stato, come recita l'articolo 3, secondo comma, deve rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione dei cittadini. Questa è la vera eguaglianza, l'eguaglianza sostanziale. L'articolo 119 la declina e stabilisce che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, regioni. Questi interventi speciali li abbiamo conosciuti nella storia e li conosciamo tuttora per tutta una serie di territori. Per esempio, su una base di principi analoghi contenuti nel vecchio articolo 119, erano legittimati gli interventi per il Mezzogiorno. Quindi, tutto il problema della cosiddetta cassa per il Mezzogiorno altro non sono che interventi pubblici previsti e garantiti dalla Costituzione per riequilibrare i territori e dare a tutti uguali opportunità.